Voci in scena di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, un nuovo appuntamento con gli incontri con i grandi protagonisti del cinema, della musica, della cultura. La nostra voce in scena di questa puntata è quella dell'autore italiano più famoso nella musica d'oggi. È un cantautore, ma oltre a interpretare le sue canzoni, scrive per Gianna Nannini, Malika Ayana, Adriano Celentano, insomma tra i più grandi della musica italiana. Nato a Milano nel 1964, si fa conoscere con i Rosso Maltese ed esordisce come solista nel 2001. Conquistando subito una targa Tenco come miglior opera prima. Nel 2004 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano Solo un sogno. A oggi ha pubblicato 5 album da solista. L'ultimo, Una voce non basta, è composto da 14 duetti. Nelle tracce da Musica Nuda a Francesco Bianconi, da Samuele Bersani a Manuel Agnelli, alla sua compagna e madre di suo figlio Cristina Marocco. Lui è Gino De Crescenzo, cioè Pacifico. Non l'avevo progettato in realtà all'inizio di fare un disco di duetti, invece facevo molta fatica all'inizio e credo poi il titolo che è arrivato in realtà proprio gli ultimi 2 giorni, proprio la mia voce, veramente facevo fatica a cantare le canzoni, mi sembrava non fosse utile tanto che io facesse delle cose da solo, non so, era proprio diventato un peso quasi fisico, facevo veramente fatica a cantarle e mi sono sbloccato soltanto pensando a queste muse che seguivo, che ho incontrato, di cui ho toccato le storie personali, oppure semplicemente i dischi, i concerti. Poi per ogni artista conta che ho scritto 3-4 canzoni per cercare quella più giusta, anche realizzando un po', quindi è stato un lavoro molto grande. E poi assieme abbiamo scelto, sì, la cosa più vicina. Faremo fino in fondo ogni strada chiusa. Supereremo gole, fiumi di acqua velenosa. Ogni giorno è un salto, è un posto caro da lasciare. Dormi che tra poco è chiaro e ti dovrò svegliare. Meno male che ci sei ancora, meno male che ci sei tu. Dietro una porta sbarrata a tutti sei riuscito a trovarmi. Meno male che ci sei ancora, meno male che ci sei tu. Per una via sconosciuta agli altri sei riuscita a toccarmi. La notte è ferma adesso, ci aspetta. È profondissimo mare asciutto. C'è molta osservazione della realtà. Sì, appunto, ho scritto tantissimo e c'era una canzone ancora forse più... ho visto che è proprio una cosa abbastanza che faccio istintivamente. Un po' cercare dettagli, ma poi credo che sia quello che fanno quelli che scrivono, forse che scrivono in generale. Poi quelli che scrivono canzoni è ancora più semplice, più sintetico. Ci pensavo proprio, parlavo qualche giorno fa con Samuele, con Bersani, mi rendevo conto che certe immagini del pallone per un maschio, diciamo, europeo, ma non solo europeo, che raccoglie a 14 anni il pallone sotto la marmitta, io non me la ricordavo da 30 anni questa cosa, poi arriva uno che la scrive e te la ritrovi dentro, e quindi quello che fai è andare in giro, annoti cose che in realtà mettiamo via tutti, solo che poi arriva qualcuno che quella scena te la colora, è lì in qualche modo congelata, e la rimette in movimento. A me interessano certe cose e ad altri, però sì, non riesco a mettermi lì, faccio molta fatica a dire ok, adesso scrivo una canzone su una storia completamente inventata, quello non riesco tanto a farlo. E gli amanti hanno sete, le bocche chissà che biglietto faranno per l'eternità. Sulle città, sul mondo, vicino il buio, profondo il cielo. Visto che adesso vedi l'Italia dalla Francia, anche se ti concentri, appunto, dicevi, soprattutto sulle piccole cose, tu come le vedi l'Italia, la situazione di oggi? Ma allora, ho sofferto tantissimo in realtà andando via, pensavo di attutire la distanza, invece ho capito che quando sei qui hai tutta la disciplina per difenderti se vai in posta, se vai in banca, se... o nei rapporti. Invece da lì, proprio per colmare la distanza, cominci a leggere, leggere. Io sono entrato in un'ossessione informativa che leggevo ogni... E francamente c'è stato un periodo in cui la provocazione continua, la tifoseria era così, sarà impadronita di tutto. E quindi, insomma, ho sentito una differenza molto forte, un rimpianto, più un dispiacere, come se si fosse acuito il dispiacere da lì. Adesso vediamo, perché di solito quando, in genere sempre per quanto riguarda il mio piccolo, le correnti artistiche, dopo dei periodi un po' bui o molto complessi, di solito c'è una rinascita artistica molto forte, no? Per cui, chissà, magari il prossimo periodo, artisti meravigliosi e teatri strapieni, speriamo. Dolce sia l'estate, tu che ti svegli, qualcun altro guida, l'ultima curva in fondo alla salita, le case basse e il mare. Dolce sia l'estate, tramina il gelo silenzioso, tocca ogni cosa che attraverso. Come ti senti ogni volta che dicono che tu sei quello, sei l'autore più desiderato dagli interpreti italiani? Perché di fatto forse adesso è così. Ma mi sento prima di tutto un po' un animale in via d'estinzione, più che altro, quindi non voglio sminuirmi, ma è una desiderabilità che dipende anche da numeri sempre più esigui, perché c'è stata un po' una moria di questi qua, perché credo che dipenda da tante cose, cioè una delle motivazioni più banali è che c'è stata una spinta cantautorale dell'interprete che ora si scrive un po'. Tutto tra l'interprete e qualche musicista vicino tendono, forse anche una questione economica, banalmente si vende meno, si cerca di ridistribuirsi meglio le cose. Ti cerco nelle zone imprecise, dove si vede appena, dove la voce debole si sfila. Ritornano improvvisi gli occhi, il suono del tuo nome, qualcosa che fa male. Sono strade che attraverso fino a te. Chissà se mi vedrai. Hai detto si vende sempre meno. Tu come lo vedi questa situazione della discografia così in alto mare? Come capita sempre, come sarà stato quando è arrivato, ora che ha vinto l'Oscar, il film francese, quando sei in mezzo a un passaggio tra sonoro e muto, quelli in mezzo non sanno bene come vanno avanti, insomma. Però si ragiona più per, vabbè, c'è il mainstream, ancora ci sono una decina di artisti che vendono tanto, poi è sparita tutta una fascia media di artisti che comunque vendevano 200.000 copie, che poi magari duravano tre Sanremo. La cosa è interessante per me, perché ora anche se vendi 10-15.000 copie è diventato un numero non disdicevole, mentre fino a qualche anno fa era una presa in giro. Adesso in qualche modo la nicchia, quindi io, dato che opero lì da sempre, insomma, vivo anche. E mi sembra che la cosa interessante sia allora la resistenza, cioè gli artisti che con i numeri che hanno riescono a pubblicare disco dopo disco negli anni, diventano un po' dei marchi di riferimento, e quindi questa cosa comunque è uno dei valori, oltre alla grande comunicativa pop. Posso chiederti una cosa, visto che appunto ti dicevo, guardo subito i ringraziamenti. Sì. Tu hai fatto questo ringraziamento ai musicisti, ai cantanti. Ti riferisci a quelli che hanno duettato con te o in generale? Quelli in specie, ma in generale proprio in questo momento, come ti dicevo all'inizio, che facevo così fatica a scrivere, mi sembrava di partecipare con le canzoni, non so, sono entrato in un'ossessione strana, paralizzante, mi sembrava di partecipare a un'opera di intorpidimento generale con le canzoni, ma su questo non mi dilungo che vi confondo, perché l'ho superata solo temporalmente, cioè, mi sa che a spiegarla sono ancora lì. E, i musicisti sono stati invece, come credo per molti di voi, cioè questi segnali che arrivano da questi, che poi alcuni diventano delle star, ok? Ma tanti lo fanno veramente, come ho scritto nella dedica, mettendo la stessa camicia per una settimana, perché non, insomma, che te la devi lavare un po' in viaggio, su palchi precari, o... E tutta questa vitalità e questo crederci è stato comunque il fatto di averne avuti così tanti qui sopra con questa disponibilità è stato un modo che mi ha aiutato, lì dice appunto, a stare sopra tutta questa melma, ma comunque sì. Quindi e poi in generale ai musicisti c'è anche una dedica a Piero Milesi che è scomparso da poco, insomma, e quindi ovviamente è una categoria che conosco e è normale che lì indirizzi insomma tanti così, dei pensieri anche di questo tipo. Posso fare la romantica? Posso chiederti di Cristina Marocco? Ma questa è stata una cosa molto, guarda, come con Samuele, con Musica Nuda, così molto naturale, perché lei è un'artista e lavora in Francia, lei è lì adesso da 13 anni, e ha avuto una storia di quella un po' da romanzo, nel senso che è andata lì come attrice che si manteneva cantando nei locali, ed è stata scoperta da un produttore, è stata coinvolta in un progetto che ha venduto tantissimo, è diventata una star, poi dopo. Adesso fa cose più di nicchia, però insomma è un artista, per cui la musica ce la troviamo. Ho suonato io la chitarra su alcune cose che faceva lei per fare il provino piuttosto che lei farmi. Quindi alla fine era abbastanza semplice metterci lì. Insomma, avevo un po' di canzoni, le sentiva, senti questa, che poi è una canzone che parla, vabbè, l'ora misteriosa, e vabbè, ovviamente l'alba è quell'ora di passaggio, però la cosa che interessava a me, che riguardava noi, è che quando mi sono reso conto che a quell'ora ci sono svegli, vabbè, chi va a lavorare? Gli studenti, qualcuno dell'ultimo momento, oppure quando è una vigilia molto inquieta, se no gli innamorati, alla fine, quelli che ancora non conoscono la stanchezza della storia d'amore, che di solito parlano. Fanno all'amore o si fanno da mangiare alle 5, insomma, tutte queste cose che mentre gli altri palazzi pian piano si spengono, c'è questa.